si parte, si torna, insieme, si monta il comasere, siamo tutti le blocchi, lo sbirro nel cantiere, sema, se sa, ci arriva l'inotav, ale, ale, ale, ale, ale! Un altro giorno inizia. controllo.